9 in punto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. Chiunque abbia avuto figli e li abbia portati in una scuola materna o in un nido non può non essere rimasto colpito dai fatti di ieri di Roma. Se tutto fosse confermato, naturalmente, perché per carità, insomma, se le accuse nei confronti della maestra e della coordinatrice della scuola materna fossero confermate, siamo naturalmente allo stadio iniziale dell'inchiesta, siamo solamente agli arresti e quindi ovviamente tutti innocenti fino a processo. Si tratterebbe in realtà però di un altro caso a sollevare un problema, che vale la pena ribadirlo per non fare poi dell'allarmismo inutile. È un problema limitato, sono 1,5 milioni i bambini che vanno alla scuola materna in Italia, le scuole materne sono 30,000, nella quasi totalità naturalmente non accade nulla di questo genere, ma è un quasi che va affrontato naturalmente anche per fronteggiare quelle che sono le legittime preoccupazioni dei genitori, naturalmente. Allora, il controllo, la prevenzione di fatti di questo genere, il ruolo degli insegnanti, la loro condizione psicofisica, come questa viene verificata, la capacità di gestire bambini apparentemente più difficili, la capacità di gestire classi più grandi, soprattutto per quanto riguarda naturalmente i bambini più piccoli. Elemento che a questo punto vale per tutta la scuola e non solo per la materna, anche se questa, la materna appunto, presenta ovviamente caratteristiche particolari proprio per l'età dei bambini. Infine, discorso che a questo punto ampliamo a tutte le scuole e riguarda non solamente casi estremi come questo, quindi casi di maltrattamenti, ma più in generale, insomma, come funziona dall'interno una scuola. Quante volte accade, anche se ripeto in questo caso è tutto da verificare, quindi per carità, quante volte accade che un dirigente scolastico vada a coprire i difetti e le manchevolezze, insomma anche quelle di docenza, di capacità di docenza e persino di conoscenza degli insegnanti del suo corpo docente. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/9in.radio24, potete scrivermi anche su Twitter Simone Spezia. Allora, io inizierei però proprio dall'ultima domanda e partirei con Gregorio Iannaccone, che è presidente nazionale dell'ANDIS, l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici. Buongiorno Iannaccone. A lei. Allora, le giro la domanda che ho fatto in apertura, o meglio, in chiusura dell'apertura, se così vogliamo dire, ossia, insomma, quanto accade e quanto può accadere che i dirigenti scolastici, io capisco che la sua posizione sia particolare, quindi, insomma, immagino che da questo punto di vista la tesi che sosterrà, insomma, sia quella di un rappresentante dei dirigenti scolastici, quante volte accade questo? Ma diciamo che fortunatamente non accade quasi mai, io mi auguro che non sia accaduto nemmeno in questa scuola di Roma, che è una scuola comunale, quindi ha anche un sistema particolare, tra l'altro è sottratta alla vigilanza del dirigente scolastico della scuola statale, così come avveniva fino all'autonomia scolastica. Prima il dirigente scolastico aveva anche una possibilità di vigilanza, quindi in qualche modo di controllo sulle scuole non statali, quindi quelle gestite da enti locali, da enti religiosi, da privati e via dicendo. Ma a parte questo, ecco, io vorrei tranquillizzare le famiglie, perché le scuole dell'infanzia sono delle bellissime scuole, soprattutto quelle italiane, sia pubbliche che anche paritarie, insomma abbiamo le scuole di Reggio Emilia che ci invidiano in tutto il mondo, insomma, ma anche quelle di Stato nelle piccole realtà o nei grossi agglomerati urbani sono in linea di massima delle belle scuole, almeno se non come strutture, come rapporto tra i docenti e i bambini e le famiglie, insomma, quindi come il dirigente scolastico interviene? Normalmente questa è una scuola particolarmente difficile, perché ci troviamo di fronte a casi di di inserimento dei bambini, di prima scolarizzazione, quindi occorre molta cautela, molta professionalità e anche un rapporto di interazione con le famiglie molto stretto. Ecco, se ci sono queste condizioni, sì, sicuramente in realtà raccontano le famiglie appunto che il rapporto era molto stretto, il rapporto di coordinamento con le famiglie era molto stretto. Allora, Antonio Marziale, presidente sociologo, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Lei sostiene che ci vogliono delle visite che, insomma, che chiariscano bene, che determinino l'idoneità psicofisica degli insegnanti, visite psicologica, attitudinale e psicologica, che al momento non esistono sostanzialmente. No, non esistono, io le introdurrei non solo per la categoria degli insegnanti, io lo farei per tutte le categorie, soprattutto quelle che hanno a che fare con vite umane, i piloti di aerei già lo fanno, poliziotti e carabinieri ogni tanto devono sottoporsi, non capisco perché il professore non debba, perché comunque il professore, il docente, l'educatore ha un ruolo estremamente delicato, si tratta di aiutare i bambini a crescere. Noi invece dobbiamo registrare un dato che io, con tutto il rispetto nei confronti dell'interlocutore che mi ha preceduto, che ha detto delle cose importanti, ci sono delle isole felici in Italia, ci sono per esempio le scuole materne di Reggio Emilia, dell'Emilia, ma anche in Lombardia, anche in Calabria, ci sono, però purtroppo c'è una statistica che comincia a diventare emergenziale di forme di abuso, non certo sempre così come è accaduto ieri a Roma, anche forme di abuso leggere, psicologiche, eccetera, sui bambini, che sociologicamente, quindi non parlo di sofismo, ma di dati registrati da noi all'Osservatorio sui diritti dei minori, che ci pervengono attraverso segnalazioni genitoriali, che stanno diventando emergenziali. Quindi io non dico ci dà una dimensione per cortesia, Marziale, di tutto questo, perché lei dice sono dati che abbiamo in possesso, e per cortesia anche un'idea di panel, perché poi quando si forniscono i dati, no, si dice succede questo, si danno le percentuali, però poi non si dice su quanti casi è stato. Noi riceviamo 8, 9, 10 segnalazioni, guardi, una decina, numero più, numero meno, al giorno di genitori che noi sproniamo ad andare a denunciare alle autorità costituite, cioè agli inquirenti, o comunque se non ci sono forme di reato ma soltanto di abuso psicologico anche alle stesse autorità scolastiche, ce ne arrivano una decina al giorno, ogni giorno. Noi non ci basiamo soltanto sulla statistica fornita da quei casi che finiscono sui giornali. Noi abbiamo, siamo ricettacolo di, ripeto, una decina di telefonate al giorno, che poi cerchiamo di verificare. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di casi verosimili, cioè di forme di abuso che partono su vessazioni nei confronti di qualche studente, di forme di mancanza di equilibrio da parte degli educatori esercitate sui bambini. Ora, questo non deve portare il Paese a pensare che siamo di fronte a una scuola mostro, ma neanche davanti a una scuola perfetta. E noi quando parliamo di necessità di esami psicoattitudinali prima di affidare bambini in gestione a un educatore, sappiamo di che cosa parliamo, e soprattutto mi conceda di essere forte nel linguaggio, ma rispettoso verso la stragrande maggioranza di insegnanti che esercitano il ruolo con grande dignità e sensibilità nel Paese. Noi ci siamo rotti allegramente le scatole di avere a che fare con gente che fa il mestiere del docente e che non ci mette un briciolo di vocazione, perché purtroppo il dato da registrare è questo: il bambino è un soggetto in divenire, è un soggetto debole, e quando lo si affida a qualcuno bisogna avere contezza che questo qualcuno abbia il giusto equilibrio per saperlo gestire, anche perché quello che è accaduto ai bambini ieri nella scuola di Roma è un fatto che segnerà per sempre la vita di questi bambini, che richiederà uno sforzo straordinario emotivo per far recuperare ai bambini serenità e fiducia nell'essere umano, che comporterà visite specialistiche ma soprattutto soprattutto che richiederà da parte degli adulti di prossimità, i genitori, i vicini di casa, gli zii, i prossimi educatori, tanto amore da dare a questi bambini, ma non dimenticheranno mai, e questo è drammatico. Sì. Vittorio Lodolo Doria, buongiorno, è un medico esperto di stress da lavoro correlato degli insegnanti, buongiorno. Buongiorno, volevo sì, quanto, volevo capire, quanto gioca il suo campo d'azione, mettiamola così, in tutto questo. Moltissimo, perché come sto per dire, mi occupo proprio ormai da 20 anni del problema dello stress lavoro correlato, quindi delle malattie professionali degli insegnanti. Il pubblico che ci sta ascoltando anche non sa una cosa importantissima: le patologie professionali degli insegnanti sono al 70% di tipo psichiatrico, sono diagnosi psichiatriche. Ora, questo è importante perché se noi pensiamo che sono riconosciute come malattie professionali solamente le laringiti croniche, che sono il 17% delle patologie, e non si ammette dunque che sono invece le patologie psichiatriche, le vere malattie professionali degli insegnanti, non si capisce che la professione dell'insegnante logora da un punto di vista psicofisico, fino a tal punto da avere determinate conseguenze. Perché dico questo? Perché, e aggiungo con dati internazionali, l'Inghilterra e la Francia nel 2009 e nel 2006 hanno prodotto delle statistiche per le quali hanno verificato che la categoria professionale più a rischio di suicidio è quella dell'insegnante. Ora, questo è fondamentale perché in Italia, e qui vengo a dare una risposta anche a quanto ha detto Iannaccone prima, in Italia non c'è nessun, o meglio è del tutto inattuata, il decreto legislativo del 2008, il quale dice che deve essere fatta una verifica e attività di prevenzione nei confronti dell'insegnante per lo stress lavoro correlato, cioè tutto ciò che può indurre patologia psichiatrica. Ebbene, non è fatto nulla, il Ministero non ha mai stanziato nulla, nemmeno quando questa legge diventò operativa il 1 gennaio del 2011. Se ricordo l'intervento che fece Monti poco tempo fa dicendo ma allunghiamo di 2 ore le 18 ore di docenza frontali degli insegnanti, disse un'emerita castroneria, perché innanzitutto non riconobbe che oltre che alle 18 ore degli insegnanti di docenza frontale c'è tutto, diciamo, il lavoro di back office, e quindi detto da lui che doveva essere il ministro, il primo ministro tecnico, fu un errore veramente enorme. Il secondo dato è che non è mai stato fatto un riconoscimento, un accertamento di quella che è la salute degli insegnanti. Inoltre è stato allungato il periodo previdenziale degli insegnanti come per gli altri lavoratori, senza andare ad accertarsi che anche in Italia, di sicuro abbiamo dei dati che ci dicono che la salute degli insegnanti è decisamente compromessa. Il 70% degli inidonei per causa di salute in Italia sono per causa psichiatrica. Venendo al caso di oggi di Roma, due cose. Beh, prima di tutto condivido con quanto lei ha detto all'inizio, estrema cautela, perché ricordiamoci che ci sono stati due casi precedenti, il caso di Brescia del 2003, dove furono fatti 3 processi fino alla Cassazione e vennero tutti assolti per non aver commesso il fatto. Sì. Rignano Flaminio è uguale, stessa cosa, assoluzione. Ora qui abbiamo i filmati e guarda caso abbiamo lo stesso pubblico ministero di Rignano Flaminio, il quale per fortuna almeno ha avuto la decenza di evitare di mandare in carcere le maestre, ma di dare gli arresti domiciliari. Dopodiché il problema è patologico, medico oppure legale, e questo è importante. Se il ministero che manda gli ispettori evita di andare a fare quella che è l'attività di prevenzione prevista per legge, signori, allora veramente ha ragione Marziale che dice i casi sommersi sono enormi, questa è solamente la punta dell'iceberg, non ci possiamo attendere che di peggio. Sì, la ringrazio per l'ulteriore precisazione sul massimo garantismo che dobbiamo mettere su questa vicenda. Non a caso, come avete sentito, stiamo parlando dell'argomento più in generale e non solo del singolo caso, proprio per questo motivo, perché casi di questo genere ce ne sono stati comprovati con anche delle condanne, penso l'ultimo mi viene in mente è l'asilo ad Anfo in provincia di Brescia, c'è stata recentemente la condanna della maestra, e però naturalmente insomma ci vuole, ripeto, immagini o non immagini, come qualcuno me lo scrive, come fai a essere garantista, me lo scrive su Twitter, come fai a essere garantista se ci sono le immagini? Sono garantista perché ci sono le immagini, ma io non le ho viste, il processo non si è fatto e finché non arriva una condanna, appunto, il garantismo è d'obbligo, naturalmente. Sveva Belviso, vice sindaco di Roma, buongiorno. Buongiorno a voi. Stavo ascoltando quello che dicevate. Come se ne esce? Ci aiuti un po'. Abbiamo parlato di test psicoattitudinali per gli insegnanti, che non ci sono e che probabilmente andrebbero fatti, e dall'altra parte c'è chi suggerisce un controllo più potente, dicono telecamere in tutte le scuole. Allora, guardi, io ho sentito prima quello che stavate dicendo, no, sul garantismo, che per carità è qualcosa assolutamente di utile, democratico e strutturato, però non c'è motivo per dubitare che questi video siano veri, e di fronte a un video essere garantisti, no, lascia un po' così. Rispetto ai controlli che si possano fare sulle insegnanti, questa insegnante in particolare, ieri il nostro assessore di delega ha parlato direttamente con la mamma di uno dei ragazzi che era stato maltrattato, e la mamma fa una fatica enorme soltanto a ipotizzare che una cosa del genere possa essere vera, perché l'insegnante nei suoi confronti si è sempre mostrata molto disponibile, sensibile, dolce, quindi c'è un vero e proprio sdoppiamento di personalità, c'è un adulto saprebbe benissimo come deviare a un test psicoattitudinale nel momento in cui già avesse una devianza precedente, anche perché pensiamo che se non se ne accorge la mamma a casa o le altre insegnanti, quanto possa essere difficile da un test rilevare. Comunque è una cosa che sicuramente può essere utile. Io credo che questa cosa sia gravissima, non sia giustificabile, non c'è un appello su una cosa del genere. Pensate che un genitore con un bimbo con disabilità che tutti i giorni lo nutre, lo ama intensamente, ma nella sofferenza di non sapere che cosa farà il proprio figlio dopo la sua morte, se avrà una vita normale, se riuscirà a integrarsi nella società, e lo ama follemente, lo affida la mattina alle cure di un insegnante, e poi viene a vedere un video che questa stessa insegnante, che dovrebbe tutelare quel bambino, lo chiama suo bastardo. Come si può sentire questo genitore? Come può la società assumersi una responsabilità dicendo dobbiamo essere comunque garantisti? C'è una responsabilità personale e su questa non si può sciogliere, deviare neanche un attimo. Belviso, la interrompo perché adesso abbiamo una breve pausa, poi la voglio far proseguire, ma soprattutto voglio che risponda alla mia domanda, che poi è la domanda di un ascoltatore che appunto ci scrive: mettiamo le telecamere nelle scuole, specialmente, ovviamente penso il riferimento sia soprattutto alle materne ed eventualmente ai nidi, insomma, quei luoghi nei quali evidentemente poi i bambini, no, hanno più difficoltà dopo ad esprimere, a raccontare, molto semplicemente perché magari hanno 3 anni e ancora non parlano bene in tutta semplicità, o semplicemente perché in qualche misura rimuovono, insomma, non so che cosa possa succedere quando escono da scuola. 9 in punto. Oh, naturalmente chi mi scrive anche sulla bacheca Facebook, ma anche via SMS, ai miei tempi si educava a schiaffoni, andava tutto bene, dico che insomma da quel che risulta dall'ordinanza del GIP, poi ripeto, naturalmente finché non c'è condanna, però insomma insulti come zozzo, scemo, sudicione, schifoso, bastardo, schiaffi, tirate di capelli, costringere alcuni bambini a picchiarne altri perché o indisciplinati, perché si facevano la pipì sotto, far pulire a un bambino per terra perché si è fatto la pipì sotto, e parliamo di bambini tra i 3 e i 5 anni, evidentemente non è il buon vecchio metodo educativo. Questo mi sembra palese che stiamo parlando di un'altra cosa. Allora, ritorniamo da Sveva Belviso, le voglio chiedere, telecamere nelle scuole? Guardi, stavo proprio cercando di fare una valutazione tecnica al telefono con un collega, quindi tra un pochino lo sapremo. Io personalmente sarei d'accordo. Chiaramente senza audio per la privacy, però già il video, no? Soltanto per poter vedere che cosa accade, potrebbe essere una soluzione. Fermo restando che a Roma, ad esempio, ma in tutto il paese, ma a Roma soltanto abbiamo 7.800 insegnanti, ci sono i soldi per fare una cosa di questo genere? Guardi, è sempre una questione di priorità. Certo. Quindi sono delle scelte politiche che poi di volta in volta, a seconda delle situazioni, possono essere intraprese. La tutela del minore è una priorità assoluta, no? Anche perché quel piccolino non si può difendere. Lei prima ha detto, e poi il bambino va a casa e non lo racconta ai genitori. Sa, ci sono dei bambini violentati, stuprati, che non raccontano ai genitori. A volte accade anche all'interno della famiglia, no? Nella maggior parte dei casi, il 98% dei casi. Si struttura proprio nel cervellino del piccolo un meccanismo di difesa altissimo, che o annulla quello che è accaduto perché non può pensare che una persona a cui è stato affidato possa fargli del male, oppure è una vergogna enorme perché è quasi un ricatto morale nei confronti di quel bambino. Cioè, probabilmente l'insegnante in questione avrà anche detto al bambino: attento che lo dico a tua madre. Il bambino si è sentito quasi, tra virgolette, in colpa lui. In colpa lui. Sì, chiaramente. Allora, intanto aspettiamo la valutazione tecnica, speriamo che riesca a darcela qua in corso di trasmissione. Voglio iniziare a sentire qualche ascoltatore. Una persona che era in attesa da più tempo è Gerardo, che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno, sono Eraldo, la chiamo da Roma, ho 39 anni. E ho avuto in passato delle relazioni con maestre di asilo e scuole elementari. Sono assolutamente d'accordo. Mi scusi, che riguarda... cos'è una passione? Cioè, ha avuto relazioni con maestre o con una? Ho avuto tra le mie compagne anche maestre d'asilo. In questo momento ho una relazione. Quello che volevo dire. Sì. Sento un ritorno, un eco. Allora guardi, la riprendiamo. Intanto sentiamo Cristina che ci chiama da Padova. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io la mia domanda si riaggancia un po' alla dichiarazione del vice sindaco di Roma circa la società civile che gira attorno ai bambini. Io per motivi così di lavoro ho contatto con i bambini in costumino, ci sono dei casi in cui dei bimbi hanno dei lividi che non mi sembrano che si siano verificati ai giardinetti o cadendo in bici. Il mio ruolo, cosa posso fare visto che il bambino... Lei che mestiere fa, Cristina? Io sono un insegnante di nuoto, dei bimbi. Quindi qualche volta arrivano con le sbucciature, ma hanno il cerottino consolatore, oppure me lo dicono loro che sono cadenti. Purtroppo Cristina, aspetti, magari si mette in un posto dove oggi evidentemente problemi con i telefoni a iosa, magari si mette in un posto dove ci sono più tacche, magari in zona piscina, in un posto dove non prende. Davide ci chiama da Milano, buongiorno. Oggi è così. Domenico da Roma, buongiorno, speriamo che lei funzioni. Domenico? Buongiorno. Oh, eccone uno con il telefono. Senta, che funziona. Io dunque abito a Roma e praticamente, visto quello che è successo in quella scuola di Roma, è un caso abbastanza eclatante, perché dà fastidio sentire queste cose, essendo un genitore, deplorevole. Comunque io tengo a dire una cosa, questa è una professione che comunque dopo tanti anni che si svolge, indubbiamente poi ci sarà una decadenza a livello proprio intellettivo e anche fisico, a livello mentale. Quindi non si può fare la maestra di asilo nido fino a 64 anni, è assurdo. Con tutti questi giovani che ci sono oggi, che hanno che hanno fatto scuole per quanto riguarda questo tipo di attività. Invece niente, continuano i nostri signori politici ad aumentare l'età. Quindi Domenico, che cosa bisognerebbe fare in sostanza? Bisognerebbe mandarle in pensione prima, le insegnanti? No, io glielo dico perché dal punto di vista dell'esperienza personale, insomma, mio figlio ha fatto la materna, insomma, il maggiore dei tre ha fatto la materna arrivando fino con un insegnante che poi è andata subito dopo in pensione ed è stata un'ottima maestra, insomma, quindi probabilmente dipende dai casi, no? Io non generalizzo, anzi, ci sono delle ottime maestre che hanno, diciamo, un tipo, diciamo, di insegnamento molto buono, però, diciamo, in linea di massima o si fanno dei controlli, diciamo, medici a queste educatrici, che purtroppo con l'età possono anche avere un pochettino, diciamo, di problemini, perché altrimenti, insomma, non se ne esce fuori. Ci sono tanti ragazzi nuovi, diciamo, di nuova generazione, che hanno fatto studi per quanto riguarda queste attività e che ancora magari sono senza lavoro, quando invece potrebbero aprire altri, diciamo, asili nido oppure diciamo altre cose, perché altrimenti pronto? Sì, abbiamo capito. Domenico, abbiamo capito. Sentiamo Nicola da Bologna. Buongiorno. Buongiorno, salve. Io le dico, io sono un docente universitario e lavoro proprio per la formazione degli insegnanti. Io ho 60 anni, quindi lavoro da molto anno. Allora, il fenomeno della violenza c'è. Noi lo dobbiamo minimizzare molte volte, o si cerca di minimizzarlo per non creare un allarmismo. Ma la violenza, quella fisica, quella denunciata, è facilmente visibile, dico facilmente, perché uno può testimoniare, mettere le telecamere, eccetera. Ma c'è una violenza relazionale che è molto profonda ed è molto dannosa. Per cui si necessita assolutamente, come state facendo voi, eccetera, eccetera, di fare il punto della situazione, il punto della professionalità, e in particolare i dirigenti hanno una cultura rivolta a difendere o a coprire i dirigenti. Naturalmente, quando dico questo, dico non tutti, però il fenomeno è significativo, cioè il non tutti è un modo di mettere le cose tra parentesi. Grazie. Il punto mi sembra chiaro. Iannacone, ritorniamo all'osservazione dell'inizio. Gregorio Iannacone, lo ricordo, che abbiamo sentito all'inizio e poi, insomma, abbiamo lasciato un po' da parte, che è il presidente nazionale dell'ANDIS, l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici. Torniamo un po' al punto di partenza. E dall'altra parte la questione dei test psicoattitudinali per gli insegnanti, che mi sembra un tema che è messo in campo, mi sembra molto interessante, in tutta sincerità, insomma. Ripeto, anche da padre, sono ragionamenti che faccio molto semplicemente, molto più da padre che da giornalista in questo caso. Sì, io ancora una premessa: noi come associazione di dirigenti scolastici, stranamente, siamo nati proprio più a tutela degli alunni che a tutela nostra, insomma, ecco, per dirle anche l'attenzione che poniamo verso questi aspetti e anche la diffusività di un fenomeno che certamente c'è, però ecco, lì si tratta proprio di verificare all'interno delle singole realtà dove c'è l'allarme e dove invece non c'è. Questo è un lavoro molto difficile, molto sottile, e in questo, diciamo, il dirigente come gli insegnanti sono lasciati soli, nel senso che non c'è alcun supporto in questa direzione, né è pensabile di risolvere il problema mettendo le telecamere, insomma, in quel caso i docenti si comporterebbero più da automi che da persone vive, insomma, si tratta di stroncare decisamente il fenomeno lì dove esiste, e quindi anche questa possibilità di documentare o di accertare l'idoneità psicofisica alla funzione nel corso degli anni è sicuramente un'ipotesi da esplorare. Sulla questione dei test, gli ultimi concorsi in fase di svolgimento sostanzialmente sono partiti concorsi a docente, cominciando ad inserire questo. Certo, non è un test medico, però quantomeno cerca di far venire fuori, insomma, quelle che sono anche delle possibili attitudini. Poi ecco, sul tema della vocazione di cui si parlava prima, certamente c'è un'attenzione molto forte dei docenti anche in tardissima età, però questa va verificata. Ecco, mi scusi Anna Corona, io so che vuole concludere, però io ho un'altra pausa perché la radio funziona così, insomma, dobbiamo far sentire che cosa succede su strade e autostrade e poi la faccio concludere. 9 in punto. Abbiamo ancora pochissimi minuti per un breve giro, partendo però da un ascoltatore, Davide da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scuso da prima, è caduta la linea. Breve, mi raccomando. Brevissimo, la soluzione sarebbe molto lunga, bisognerebbe riformare il sistema scolastico. Due soluzioni nell'immediato: telecamere audio e video nelle scuole. Parlo da padre, con un euro nella retta scolastica in più a tutti quanti le telecamere si mettono, ormai costano 5 euro le telecamere. Questo serve come dissuasivo, non come soluzione. Se il docente sa che c'è la telecamera, prima di alzare le mani ci pensa, anche perché sulle mie modalità che funzionano io avrei qualche dubbio. Seconda cosa, test psicofisico attitudinali e per favore anche test dell'alcol e delle droghe, perché se ne vedono di ogni a scuola. Una battuta sola, se mi consente, al dottor Doria. Parlava di stress da lavoro correlato. Beh, il lavoro degli insegnanti è uno tra i più semplici, hanno 2-3 mesi di ferie l'anno. Facciamo un'indagine su quali sono i lavori che realmente stressano le persone. Grazie. Non lo so, io non so, sì, insomma, se i dati sono quelli, Doria, da quel punto di vista, l'odoro Doria, c'è poco da dire, insomma, no? Insomma, poi io capisco, certo. Io capisco anche, in particolare per quanto riguarda, no, le classi con bambini più piccoli, come nel caso delle materne, è oggettivamente complicato gestire un bambino per un'intera giornata, cioè un gruppo di bambini così grande per un'intera giornata, insomma, non è che, no? Sì, aggiungo questo, che se immagino che l'ascoltatore che ha parlato adesso, basta che lui faccia questo test, faccia fare il compito a suo figlio tutti i giorni della settimana, vedrà quanto è difficile. Poi moltiplica questo per 30, è una cosa importantissima. A suffragare quanto ho detto, che non sono casi, sono numeri internazionali, quando diciamo che la categoria professionale di insegnanti. No, però usciamo da questa, Doria, l'odoro Doria, la fermo. Usciamo dalla contestazione delle parole dell'ascoltatore e restiamo però sul merito invece delle due proposte. E molto brevemente, telecamere nelle scuole, anche con audio video come metodo di dissuasione, e dall'altra parte test non solo psicoattitudinali ma anche analisi del sangue, e qua poniamo quasi un altro problema. Allora, rispondo in due modi tranquillamente. La prima, quella delle telecamere, ha ragionissima Iannaccone, diventano degli autonomi, è una sciocchezza enorme. Allora perché non le piazziamo, visto che il vice sindaco parlava anche della violenza in famiglia, in tutte le famiglie piazziamo, una stupidaggine colossale. Poi sì, addirittura sì. Quella di levare l'audio. Mi scusi, ma che vuol dire, insomma, che c'entrano le famiglie? Le scuole sono un luogo pubblico nel quale mando i miei figli. Cioè, ma è semplice, la telecamera non è una soluzione. Leva, come diceva giustamente Iannaccone, quell'autonomia, quella responsabilità all'insegnante. Poi la seconda cosa è sugli esami, ecco, e su questo su Iannaccone che vedo un inciampo, e guardate che c'è una legge che dice che deve essere fatto l'accertamento della salute dell'insegnante, non è fatto assolutamente niente, quindi abbiamo un decreto, il decreto 81 del 2008 che prevede questo, e il dirigente scolastico, e do anche questo dato a Iannaccone, il dirigente scolastico, ahimè, in questo, cioè nell'utilizzo dell'accertamento medico nei confronti del suo insegnante, è totalmente ignorante. Pensi che il 21 maggio del 2008, quindi qualche anno fa, 5 anni fa, presentai a Montecitorio, cioè non in un bar, a Montecitorio, l'esame per vedere quanti dirigenti scolastici sapevano e conoscevano l'utilizzo dell'accertamento medico per gli insegnanti. Il risultato, meno dell'1%. Meno dell'1%. Quindi anche questo è un punto. Anche questo è un punto. Guardi, dato che abbiamo un minuto, voglio capire se Svea Belviso, vice sindaco di Roma, ha sciolto la riserva. Telecamere nelle scuole, sì o no? Tecnicamente si può fare? Devo però dire una cosa. a una vostra ascoltatrice, perché è importante, lei ha detto se mi capita di vedere lividi che cosa devo fare, si fa la segnalazione ai servizi sociali. La telecamera della scuola non è una sciocchezza, io non mi permetterei di dire così, a tutela del bambino e delle insegnanti, perché è un insegnante che non ha nulla da nascondere, non ha nulla da temere, e ci sono migliaia di insegnanti che amano tutti i giorni i nostri figli e noi le ringraziamo, e sono la stragrande maggioranza, 7.800 sono a Roma, qui non stiamo chiaramente mettendo un focus sul panorama insegnanti, che sono delle persone straordinarie e fanno un lavoro straordinario e difficilissimo perché ci aiutano a crescere i nostri bambini, però se c'è un caso si può fare o no? Belviso, abbiamo 20 secondi, abbiamo 20 secondi. Si può fare. Si può fare, lo farete? Si può fare, ci metteremo in campo, Roma sta in campagna elettorale, quindi chiaramente ci vuole tempo per mettere giù le questioni tecniche, ma tecnicamente si può fare. Grazie Sveva Belviso, Vittorio Lodolodoria, Gregorio Iannacone, grazie ad Alessandro Marco Tulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani giornata speciale che Radio 24 dedica alla violenza contro le donne, quindi appunto puntata dedicata anche di nuovo in punto, a domani. Ricordati! Mancano 46 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente.